violenta contro lo spreco, subito ho detto guarda, mi piace moltissimo, la facciamo. Sono andato alla Caritas, ho raccontato questo e alla Curia, hanno individuato nella parrocchia di Greco uno spazio tra l'altro molto bello che è il vecchio teatro degli anni 30 e a questo punto ho chiamato Azzone, il rettore, gli ho chiesto del Politecnico, ho chiesto mi faresti cortesemente il progetto di ristrutturazione per fare un bellissimo refettorio che poi resterà la città. Poi da lì poi ho chiamato Bellini, Cerri, Cibic, De Lucchi, Iacchetti, Lissoni, Mendini, Novembre, Origoni, Pesce, Rota, Terri, Tunnel, Urpiola e gli ho chiesto a ciascuno di loro di disegnare un tavolo per 8 persone e Maurizio Riva li realizzerà in quercia. E poi la stessa cosa ho chiesto agli artisti, a Maurizio Nannucci, a Palladino, a Giuseppe Penone, a Enzo Cucchi, e ho chiesto di fare un'opera lì, per fare un refettorio che sia bello, perché proprio come alimento fondamentale dell'uomo, generosità e bellezza, è veramente la costituzione di una piccola comunità operosa che lavora, diciamo, per l'altro, che lavora per l'altro da sé e soprattutto per l'altro bisognoso. Sarà sicuramente una cosa che farà il giro del mondo, perché oggi sappiamo quanto peso hanno nell'opinione i grandi chef, e i grandi chef fanno un gesto importantissimo, quello appunto di con la loro creatività dimostrare che il cibo è una cosa preziosa e si possono fare eccellenti cose con ciò che si è avanzato. Perciò attenzione massima a noi stessi e a ciò che produciamo contro lo spreco. Qui è una bellezza che confina con veramente un concetto classico di bontà, è veramente il calosso insieme al bene, può diventare veramente un grande modello, proprio un modello ambrosiano e un modello italiano nel mondo, perché diciamo di carità ce n'è bisogno in tutto il mondo. La soluzione ai gravi problemi alimentari che affliggono il nostro pianeta passa attraverso le comunità locali e le produzioni familiari. Lo sostiene da anni Slow Food, che ha dato vita alla rete di Terra Madre per facilitare l'accesso ai mercati da parte dei produttori di piccola scala. Insieme alla FAO, Slow Food ha deciso di dedicare il 2014 proprio all'agricoltura familiare. Gli agricoltori vanno pagati il giusto e bisogna far tornare i giovani alla terra. È l'appello che ha lanciato Carlo Petrini, presidente e fondatore di Slow Food, ai nostri microfoni. Questo nostro paese nel 1950 aveva il 50% della popolazione attiva in agricoltura. Oggi sono meno del 3%, più della metà, più di 60 anni. Quindi è gioco forza ritornare alla terra, garantendo però ai giovani di non fare delle vite grame, garantendo di costruire dei progetti di vita, di usare le nuove tecnologie e soprattutto di avere meno burocrazia, perché la burocrazia sta uccidendo i nostri coltivatori. Notizia di qualche giorno fa, sempre a Milano, aprirà a settembre il ristorante solidale a un euro, 500 coperti su 2 turni dal lunedì al sabato. Si chiamerà Ruben, come un contadino morto di freddo al quale Ernesto Pellegrini, l'imprenditore della ristorazione, ex presidente dell'Inter, ha voluto intitolare l'iniziativa. Ora parliamo di social market. Codice a barre di Cristina Lazzati. Si fa largo il concetto di Big Society, dove la società stessa, fatta di persone, a mettersi in gioco per aiutare chi vive il disagio economico sempre più frequente negli ultimi anni. E proprio su questo concetto ha aperto ai primi di ottobre a Milano il mercato della solidarietà in via Leoncavallo 12, in uno spazio confiscato alla mafia. Laddove dunque si incrociavano i traffici di cocaina sull'asse Milano-Palermo, oggi nasce un supermercato per famiglie in difficoltà, che offre merci con uno sconto del 25% o gratis a chi non può permettersi una spesa a prezzo pieno. Non manca nulla, generi alimentari, detersivi e prodotti per l'igiene personale. Uno spazio voluto dal comune, gestito dai volontari dell'associazione Terza Settimana. Molti hanno dato una mano, da Milano Ristorazione, che ha donato una cella frigorifera, a Iper La Grande I, che fornisce i prodotti da rivendere a prezzi da grossista. Obiettivo è aiutare chi è in difficoltà a mantenere il più possibile una vita normale. In Italia, nell'ultimo anno, sono nate molte attività alternative alla mera carità, cosa buona e giusta, ma vissuta con umiliazione da molti cittadini. A Modena ha aperto il supermercato per i disoccupati, lavoro in cambio di spesa.